voluto dedicare il mio primo gesto a Giuseppe Dozza. Ho deposto un mazzo di garofani sulla sua tomba attraversando la Certosa. Ho voluto ricordare tutte le persone che non ci sono più, i nostri cari, così come le persone che hanno fatto questa città. Adesso sta a noi ripartire dalla loro eredità, dalla loro passione, dal loro amore per la città e uscire dalla pandemia difendendo il lavoro, rafforzando i servizi sociosanitari, dando risposta a questo voto così importante che ci consegna una grande responsabilità, fare di Bologna la città più progressista d'Italia. Ieri notte come festeggiato? Con la famiglia, i miei figli, lo staff, tutte le persone che ci hanno dato una mano in questa lunga campagna elettorale. Senta, molti non sono andati a votare. È vero, a Bologna non sono andate a votare tante persone, devo dire la città dove si è votato di più in Italia, avevamo anche il patrono. Abbiamo ottenuto come centrosinistra 10.000 voti in più in termini assoluti rispetto a 5 anni fa, questo lo voglio dire, i voti del centrosinistra ci sono stati tutti nelle urne, mentre quelli del centrodestra evidentemente sono mancati. Io ho visto una forte competizione fra Fratelli d'Italia e la Lega, si sono dimenticati di avere un candidato civico che era Fabio Battistini. Ci siamo sentiti e a lui va ovviamente la mia stima e la voglia di collaborare in questo. Ha preso la percentuale più alta da quando c'è l'elezione diretta, quindi si sente più forte rispetto ai suoi predecessori. Mi sento molto motivato, noi ci siamo assunti un impegno molto importante, riportare la città al lavoro, riportare questo paese ad essere forte e non lasciare indietro nessuno. Quindi insieme agli altri sindaci delle grandi città italiane lavoreremo per attuare il PNRR, una sfida enorme, dobbiamo in 5 anni investire tanti soldi, tanti miliardi di euro che devono essere utili per fare le case popolari, la transizione ecologica, i servizi sociosanitari. Abbiamo davvero di fronte a noi un impegno molto importante che nessun sindaco in Italia è mai riuscito davvero ad attuare, cioè in 5 anni fare appalti e costruire delle città. Queste elezioni hanno visto il crollo del Movimento 5 Stelle, invece Fratelli d'Italia, che è il secondo partito a Bologna. Cosa ne pensa? Beh, io voglio ringraziare i 5 Stelle, così come gli altri partiti della coalizione, hanno dato un contributo importante. Se non avessimo lavorato insieme per un anno e mezzo, non avremmo visto questo risultato. Riguardo a Fratelli d'Italia, che dire? Io penso che ancora la destra in questo nostro paese non sia pronta per governare. Vincono le azioni solo quando soffia il vento populista, ma non sono in grado di presentare nelle grandi città candidati, progetti all'altezza della proposta. Mancano di classe dirigente, questo ormai si è visto, e invito Meloni e Salvini a chiarirsi le idee, perché continuano nelle città a inseguire il voto di piccoli gruppi di estrema destra, mentre dovrebbero parlare agli imprenditori, dovrebbero essere un centrodestra all'altezza. Cosa la guiderà nella formazione della nuova giunta? Le competenze. La scelta di costruire una giunta metropolitana e comunale sarà la prima in questo senso. Sarà una giunta paritaria e con una vice sindaca donna. Conteranno anche i risultati delle liste, diciamo, i posti degli assessori? Conterà il lavoro fatto assieme. Quindi io ho in mente un'idea di giunta per svolgere il lavoro che abbiamo di fronte. Noi abbiamo l'agenda dei primi 100 giorni nei quali mettere a terra tutte le decisioni, le scelte che abbiamo già condiviso nel programma e poi si parte per attuare. Emily Clancy, che ha fatto il record di preferenza, è un buon profilo per questa vice sindaca donna? Emily sarà un'ottima compagna di strada, verrà il momento nel quale decidere cosa fare. Quante settimane ti dai per fare la giunta? Quelle che servono. Mattia Santori ha ottenuto anche lui un buon risultato, anche lui potrebbe essere della giunta. Mattia Santori è stato assolutamente una novità importante, abbiamo fatto una scelta insieme, è stato coraggioso perché si è voluto candidare nel Partito Democratico, non ha scelto l'antipolitica, ma anzi l'idea di capitalizzare il percorso che ha fatto in questi anni, mettendosi a disposizione di un partito che vuole valorizzare i giovani e le competenze. Quindi sono sicuro faremo delle belle cose insieme anche a livello nazionale.